Lasci stare quella vodka adesso. Ricostruiamo tutto dall'inizio. Era il giorno dell'appuntamento, il grande giorno. Quello strozzino li voleva tutti i soldi e non era più disposto ad aspettare. Sì, sì, ma lei non gliele ha portati. Ecco, un attimo, devo spiegarle prima. Insomma, io... Sì, si dice così, in genere si prende tempo. Ma cosa doveva spiegare ancora quel maledetto ad un usuraio? Era l'ultima proroga e lei lo sapeva. Lo so. Si accorse che non avevo i soldi con me. Mi prese per un braccio. Immaginai che volesse violentarmi. Sì, sì, sì, io lo so quello che disse. Lui disse più o meno così. Basta. Me stai a fare una capoccia così. Te devi da una mossa. Me devi da firmare il passaggio di proprietà. Lo so, maledizione, lo so. Vuole prendersi l'azienda. Ma l'azienda vale molto di più di quello che le devo. Gli dico. E lui... Sapevi tutto fin dall'inizio, bella. Strozzino! Gli urlo. Glielo urlo in faccia, anche se ho paura di quell'avanzo di galera. Mi ha portato via una proprietà che vale almeno 1000 volte il suo prestito. Strozzino io. Non mi chiamavi così quando avevi bisogno dei liquidi. Sì, immagino, dottoressa, immagino. Ma che cos'è che immagina lei? Io di certo non potevo immaginare che stavo firmando la mia condanna a morte. Eppure giravano certe voci sul suo conto. Quali voci, dottoressa? Ma andiamo, signore direttrice, lui deve averle detto così. E che c'hai paura? Sta buona, guarda che io sono mo d'affari, eh. Sono una specie di banca io. Sono a banca, con clienti speciali, clienti selezionati. Si rende conto? Io gli ho creduto. Delinquente, lei è soltanto un delinquente. No, ma non è con me che deve prendersela, signora direttrice. Io non ho i soldi da prestarle. Sono un suo dipendente, non lo dimentichi. Sono in questa azienda da quando quella buon'anima di suo padre... Lasci stare mio padre adesso, non è il caso di... Ascolti. Sì. Io lo insulto quello lì ed ho una paura incredibile. È qui che mi prende per la gola. Lasci. E stringe. Oddio, stringe. Penso. Oddio. Ecco, sto morendo. Questo strozzino, sì, mi sta uccidendo. Ma mi lasci. Poi allenta la presa e mi fa. Domattina alle 8 in punto vengo sotto casa tua col mio avvocato per la firma del passaggio di proprietà. Non me dà una sola. Se no, so cazzi tua. È chiaro. Quel maledetto vuole la sua azienda in cambio del prestito che lei non è riuscita a restituirgi. A questo punto lei chiaramente ha paura, no? Certo che ho paura. Ah. Me la sto facendo sotto, ma mi nascondo. Continuo a guardarlo negli occhi con un'espressione di sfida. Io non ho paura, sa? Gli dico. Le auguro di affogare in tutta questa melma prima di questa sera. Magari dopo, a dire Tribeck, mo te stai a negate, vero? Ma non te vedi, c'è la merda fino al collo, c'hai. Delinquente, io ti ammazzo. No, ma che fa adesso, direttrice? Cosa fa? Mi punta la pistola a me. Vuole uccidermi per caso? Gli puntai la pistola in faccia e lui cominciò a ridere. Mi disse qualcosa che non ricordo, qualcosa di molto volgare, ed io abbassai lo sguardo. Non per paura, non gli mostrai mai la mia paura, la tenni nascosta fino alla fine. Abbassai lo sguardo per vergogna, per pudore. Volevo piangere. Mi solleva il mento lo strozzino, mi guarda incagnesco e sento il suo alito caldo sul viso. Signora direttrice de sto cazzo, t'aspetta domattina alle 8 sotto casa tua. Vengo col mio avvocato, non me da una sola. Se no so cazzi tua, direttrice. Gli faccio sì con la testa. Questo è stato il mio unico momento di debolezza, quando gli faccio sì e gli dico sì signore. Domattina alle 8 in punto. A che ora? alle 8 in punto. Non m'arriva, lo devi da di più forte. Andiamo su, a che ora? 8 in punto, signore. Ah, vedi che lo sai fare. Mo dammi quel coso. Ma che ce devi fare con la pistola? Ma tu, ma non te vedi? E poi me stai antipatica. Va, vattene a casa, io non te voglio vedere più. Vai via, vai, su. Ma come si permette? Mi restituisca la pistola. Gli sta dando di volta il cervello? No, signora direttrice, le chiedo scusa. Davvero, è che immaginavo la scena, tutta quella volgarità e poi lo strozzino, il suo alito caldo, la pistola addirittura in mano. Oddio, che casino. Di nuovo scusa, signora direttrice. Ok, non si preoccupi, lasci stare. È che ricordare mi fa male, mi fa piangere. Io che non l'ho mai fatto. Si rende conto a che punto siamo arrivati? Da qui ha inizio la fine, la nostra fine. Quell'uomo arriva e innesca una bomba all'idrogeno che comincia ad esplodere. Ed esplode piano, poi più forte, poi ancora più forte, ed esplode, deflagra, polverizzando tutto. Esplode dentro questa azienda, che era di mio padre. Esplode nelle nostre case, lo sa bene sua moglie. Ed esplode nelle nostre teste, nei nostri cuori, facendoci diventare capaci di odio, capaci di morte. Si guardi intorno, guardi quanta polvere. Ecco quello di cui siamo stati capaci. A causa di questa bomba ci siamo dati la morte, pensando che nessuna salvezza sarebbe stata possibile. Che stupidi. L'odio reciproco ci ha infettati fino a farci credere nemici. Io di lei, mio fidato dipendente, e lei di me, la signora direttrice. Quanta vanità, quanto egoismo, quanta solitudine, quanta violenza. Sarebbe bastato guardarci, no? In fondo è sempre stato così qui al lavoro. Io e lei, forse. Sì, forse, signora direttrice, forse. E non mi chiami più signora direttrice. Non ha più senso che lei lo faccia. Siamo dentro la stessa polvere. E cos'è questa busta? Il nuovo elenco delle spese mensili? Non avevo altra scelta, lo sa benissimo. Controllerò ogni cosa prima di mandare in contabilità. Contento lei. L'hanno già informata di là? Chi? Per cosa? Hanno chiamato di nuovo questa mattina i fornitori. Vogliono essere pagati alla prossima scadenza. Sì, non aspetteranno un giorno di più, almeno così dicono. Bisognerà trovare liquidi per sistemare le cose se non vogliamo che le macchine blocchino la produzione, sa? Sa una cosa? Per una donna è più difficile. Stia tranquilla, controllerò i numeri nella busta sino al centesimo. Contesteremo ogni cosa, non gli daremo fiato e prenderemo tempo. Tempo? Oh no, non mi riferivo a quello. La scelta del vestito, che ne dice di questo? Alla moda, sì. Il direttore di banca, mentre ti stringe la mano, ti butta un occhio sulle tette. Non devi mostrargliele, potresti deluderlo. Ma neanche nasconderle del tutto, lo deluderesti ancora di più. Lui ha i soldi. Ti guarda qui sul seno e dice: il suo credito, sì, ci penserò su. E tu gli diresti: la prego, direttore, tocchi pure le mie tette, ma non ci pensi. Un push-up color carne magnifica il décolleté ed accelera l'apertura dei crediti, sa? Sì. Comunque io voglio che lei sappia, signora direttrice, questa volta dovremo raschiare il fondo, recuperare ogni cosa in giro. Questa volta la faccenda è molto, molto, molto seria. Dovremo fare sacrifici se necessario. Il rischio è che i fornitori cessino improvvisamente di inviarci materiali per le macchine giù in produzione. Ma lei lo sa che c'è la VK Patronic che ha già dimezzato i componenti? Venga, venga, venga qui. Oh, non mi interessa. I capi reparto si lamentano, sono sotto pressione. Li lasci piangere. Vedi i venditori? Quelli sono addirittura inferociti. Dicono che non riescono a vendere se non ci sono pezzi a sufficienza in magazzino. I clienti quella merce la vogliono subito. Non possiamo ritardare le consegne. Mi creda, direttrice, su questo i nostri venditori non hanno tutti i torti, La VK Patronic non doveva farci una cosa del genere. Diamine, compriamo da loro da almeno 10 anni. Siamo sempre stati puntuali nei pagamenti prima di questa crisi. Quando tutto questo sarà passato, secondo me potremmo anche cambiare fornitore. Ma certo, ci sono quelli della Cosmotech, un'azienda in rapida espansione. Credo che potremmo provare a comprare da loro. Diamine, non ci sono mica soltanto quelli della VK Patronic in giro, no? Ma dottoressa, che fa adesso? Io le sto parlando di aziende, lei si agghinda le borse, il foulard. Ma cosa sta facendo? Ma comunque, le dicevo, la Cosmotech. Viaggiano veloci come un treno, producono pezzi in Cina. Credo che per questo riescono ad abbassare notevolmente i costi. Sa, devo avere un dépliant da qualche parte, mi lasci un attimo di tempo, glielo trovo. Eccolo qui, guardi, guardi, dottoressa, davvero niente male. Io scommetto il mio stipendio sulla loro convenienza. Cosa ha da guardarmi? Mi trova ingrassata ultimamente? No, è che io, sinceramente, sa, continuo a pensare a quel giorno quando lei, sì, lei mi consegnò la busta. Guardi le scarpe e la borsa. Le piacciono? Fanno pandan. Dottoressa, sto forse esagerando? Vuole forse dirmi che la situazione non è come gliela sto descrivendo? No, no, no, no, me lo dica, su, signora direttrice. Per favore, la busta, questa busta, cosa ha messo qui dentro? Me lo dica! Proprio non riusciva ad immaginarlo. O forse lo sapeva e non voleva saperlo. Metterò i tacchi alti questa sera. Sa che sono un vero toccasana per la circolazione. Chi l'avrebbe mai detto? Eppure c'è qualcosa che non va. Me ne accorgo dal suo sguardo. Perché io sono in questa azienda da quando la Bonanni, da pezzi suo padre, la conosco da quando era piccola, così. Lei vuole sicuramente dirmi qualcosa. Sì, sì, sì, lo capisco da come mi guarda. Eppure credo che lei non possa rimproverarmi nulla. Insomma, mi ha chiesto di rinunciare a 2 giorni di lavoro ed io l'ho fatto. Mi ha chiesto di prolungare l'orario senza segnarlo sullo straordinario. Ho fatto anche questo. Ma lei lo sa che io porto i registi a casa e ci lavoro da lì per risparmiare tempo? Ah, questo lei non me lo ha mai chiesto, ma io l'ho sempre fatto. E sa perché? Ma sì, per questa azienda, per questo lavoro, per il mio desiderio ossessivo di portare a termine le cose prima che si accumulino qui in ufficio. Pensi che proprio l'altro ieri, su questa scrivania, dove lei adesso impunemente siede a provare le scarpe, il foulard, ebbene qui sopra c'era un pacco di fogli alto così. In meno che non si dica, io sono riuscito ad inserire tutti i dati nel computer ed è per questo che oggi i clienti... Oh, andiamo, dottoressa, cosa c'è che vuole dirmi? Rossa o blu? Ma cosa? La borsa, la borsa! Ma lei pensa a queste cose? In un momento come questo... Sa cosa le dico? Io, Cristo Santo, adesso... Ma sì, adesso chiamo quello della VK Patronic e gliene dico 4. Gli dico che ci stanno bloccando la produzione, che questa cazzo di riduzione di componenti, insomma, devono smetterla. Le macchine sono ferme, devono consegnarci la roba. Oh, cazzo, cazzo! Dottoressa, le chiedo scusa. Questa tremenda faccenda mi dà alla testa. Si rende conto? Io che perdo la calma. Oddio, cosa mi sta succedendo? Adesso divento anche volgare. Lei non è affatto volgare. Non lo è stato neanche quando mi ha sparato addosso, sa? Io non ho mai pensato male di lei. Mai. Grazie, signora direttrice. Ma com'è cara. A volte... somiglia così a suo padre. Ed allora io adesso, sa cosa faccio? Ma sì, chiamo quelli della Cosmotec. Si ricorda l'azienda dove ho messo il Deplian? Deve essere da qualche parte. Le dicevo, no, quelli che producono in Cina. Mi faccio fare un preventivo, nessun impegno. Vedo se accettano di essere pagati a 3 mesi. Magari sei. Io ci provo, non si sa mai. Sì, pur di sottrarre clienti ai concorrenti della VK Patronic, magari accettano una proposta anche poco conveniente per loro. È sempre così quando vuoi guadagnare mercato. È sempre così all'inizio. Lo fu anche per noi, lei non se lo ricorda, quando c'era suo padre. Noi entrammo nel mercato come un uragano. Vendevamo a prezzi bassissimi. Lei non può saperlo, ma glielo dico io. Tutti erano felici, lo sa. Erano felici i fornitori perché venivano pagati alla scadenza, i venditori perché facevano felici i clienti, e gli operai giù alle macchine, oh, quelli erano raggianti, ci credo io, erano sempre a straordinario. Bei tempi quelli. Eppure questo suo sguardo, questi suoi occhietti vispi, io so che lei ha una soluzione alla crisi, vero? No, non rida, no, lei ce l'ha e non vuole dirmelo. No, è così, io la conosco. Sì. Ma è forse scritta in questa busta? No, io sospetto che dietro questo suo silenzio ci sia qualcosa di buono per tutti noi. La speranza di venirne fuori al più presto, tutti quanti insieme. Io sono sicuro che lei ha una ricetta per far tornare le macchine lì sotto a pieno regime. Dai, su, me lo dica. Lei deve avere trovato dei finanziamenti in giro. Sì, magari delle banche, banche disposte a farci credito, È vero. Ma allora è questo quello che pensava? Sì. Lei davvero ha creduto che le banche... Sì, io ho creduto che le banche... Perché? Cos'ha contro le banche? Ci hanno sempre aiutato, no? Quando c'era suo padre, si telefonava a loro. Per favore, mi dica subito. Io ho molto lavoro da svolgere prima di andare via. Oggi non posso fermarmi per lo straordinario. Ci sono le registrazioni di magazzino, gli elenchi con tutti quei codici e poi sai, i clienti. Dottoressa, vuole forse dirmi che io devo rinunciare ad un altro giorno? Non sto dicendo questo. No, insomma, se la situazione è così grave, bene, io potrei fare qualche ulteriore sacrificio. 2 o 3 giorni, insomma, sono la stessa cosa, no? No, e poi no. Mi ascolti, per favore. Io porterei il lavoro a casa, senza creare alcuna discontinuità. No, io non avrei nessun problema. Ecco, insomma... Vorrei dirle che la mia situazione familiare non mi consentirebbe di accettare, ma il mio senso di responsabilità, la mia serietà, la mia fedeltà all'azienda mi convincono che quella potrebbe essere la cosa giusta da fare. Sa cosa faccio? Io accetto la sua proposta, prendo la busta, è così. Anzi, no. Un attimo, mi ascolti. Ecco, volevo dirle... Quell'altra cosa, sa, l'altro giorno venni in ufficio, poi lei non poteva ricevermi, c'era quel problema. Sì, mia moglie, no? Claudia. Sì, Claudia, anche lei ha dei problemi. Ha un contratto particolare, non si sa mai se... Nel senso non glielo hanno rinnovato, ecco. E poi c'è la scuola dei bambini. Io glielo dicevo a Claudia, non mandiamoli dalle suore, quelli... Ci spillano un sacco di soldi, ma lei no, è una questione di prestigio, i figli di mia sorella ci vanno e poi c'è il mutuo per la casa. Se avessi ascoltato suo padre me lo diceva, no, a tasso variabile, no, e invece io testardo ed ora sono con le pezze al culo, comunque non voglio che tutte queste cose influenzino la politica dell'azienda. Ripeto, se lei volesse chiedermi di rinunciare, io guardi, le risponderei che non avrei alcun problema a farlo, no. È perché ho completa fiducia nel superamento della crisi, perché io incarno quello che era lo spirito di suo padre. In momenti come questi lui ce lo diceva, dobbiamo essere una famiglia adesso, dobbiamo tenerci tutti uniti, ed effettivamente era così, riuscivamo a superare i momenti difficili. Sono sicuro che tutto questo si risolverà, dottoressa. Questo suo silenzio. Insomma, vuole dirmi o no cosa c'è nella busta? Devo confessarle che questo suo ostinato silenzio comincia ad innervosirmi. Le dico ancora una volta, cosa vuole da me? Questa benedetta busta. Cosa c'è qui dentro? Ma non può dirmelo a voce. Adesso scegliamo la comunicazione formale. Oppure lei... Non mi dica che... Non... Oh Madonna Santissima. Non mi dica che lei... Lei... Qui dentro ha scritto... Lei ha preparato per... Lei mi sta licenziando. Ecco, ci siamo. È qui che se ne accorse. Un momento cruciale. Forza, sistemiamo tutto come era quel giorno. Sì, sì, sì. Quella sedia la metta qui. Dove, scusi? Ma qui dove era quel giorno? No, non era lì, era dall'altra parte. Ma ha ragione lei, sì, sì, sì, era qui. E io ero seduto, vero? Sì, sì, era seduto. Lei era di fronte a me, no? Sì, sì, si accomodi. E io le dissi questo. Ecco, senta, non lo faccia, dottoressa. Pensi molto bene a questa cosa. Io non posso essere licenziato perché ho bisogno di questo cazzo di lavoro. Non saprei dove cercarne un altro. Chi vuole che prenda uno come me? Ma mi ha visto, ho quasi 50 anni. Ma non si butti giù, forza. Stia zitta, per favore. Stia zitta. Se lei mi consegna questa busta, se mi obbliga ad accettare il licenziamento, allora io oggi stesso porterò la lettera dall'avvocato, anzi no, al sindacato. Oh. E sa perché? Perché sono convinto che questa procedura è profondamente illegale. Io lavoro per lei da più di 10 anni, ho fatto la sua fortuna. Su. No, stia zitto, io ho lavorato per questa azienda. Così. Ho persino nascosto, imbrogliato per lei. Per questa azienda, sa come mi chiamava suo padre? Ma eh? Sì, ancora con questa storia, su. Non è mica una storia, io ero il suo... Sì, il braccio destro, lo che so, se lo ricorda, so. Il braccio destro di suo padre, lei, in men che non si dica, un calcio nel culo e fuori. Ah, ma non gliele permetterò, non glielo permetterò. Se lei mi licenzia, io le metto le mani... Oddio santo... Oddio, mi scusi. Ecco, si calmi, per favore. Sì, sì, devo calmarmi assolutamente. E tuttavia voglio essere franco con lei. Io non accetto questa lettera. Non l'accetto né adesso e né mai. Consideri il mio rifiuto, dottoressa. Non voglio quella sua busta del cazzo! Ora non venga a piangere da me, per favore. Prenda la busta e se ne vada. Abbiamo già tanti problemi qui. Non ci si metta anche lei, per favore. Non ci penso nemmeno. La busta non la prendo. Sotto, alle macchine, i capi reparto sono diventati degli agitatori e minacciano lo sciopero per il ritardo dei salari. I venditori si lamentano della produzione che va a rilento. I fornitori vogliono soldi e subito. E poi le banche. Non parliamo delle banche. Lei sa meglio di me di che cosa sono capaci le banche. Ma cosa fa adesso, dottoressa? Mette quella stupida maschera sul viso, perché? Le banche prendono, arraffano, rubano, rapinano, depredano, spogliano, spolpano, assorbono, mangiano, ma sì. Ingurgitano, ingrassano, pigliano. Insomma... Non venga a farmi la lagna, non è proprio il momento, mi creda. Okay. Io sono in condizioni peggiori delle sue. Sì. Perciò piuttosto lavori, certo. Corra, organizzi, si dia sì, da sì, fare, sì, collabori, si certo. Muova, raccolga, produca. Certo. Ci sono almeno 500 persone là fuori che vogliono che io prenda provvedimenti immediati e che dia loro soluzioni concrete. Certo. Adesso, capito? Sì, certo. Vogliono lavorare meno, vogliono soldi, vogliono Cristo. Orari comodi per via dei figli, della moglie che lavora, vogliono la mia pelle, vogliono tutto, ma tutto è impossibile, come lei sa. Certo. Anzi, forse in questo momento anche poco è impossibile. Sì. Ora quello che ci si aspetta è niente. Okay, si calmi. Quelli della VK Tronic hanno dimenticato i componenti, quei prepotenti della VK Tronic hanno già dimenticato di quando la sottoscritta autorizzava acquisti in nero. Che disgraziata. Proprio in questo ufficio, proprio loro che venivano a piangere in questo ufficio. Se lo ricorda? Ma certo, sì. Su, su, la metta lei adesso la maschera. La metto io? Che gioco è questo, dottoressa? Ecco, sì, così. La prego, Signora direttrice, ci faccia lavorare. Non possiamo fatturare l'intero importo, sa? Sa com'è? La concorrenza a noi della VK Tronic è così dura e senza regole e spietata. Andiamo, dottoressa, ci dia una mano. Gliel'abbiamo data una mano, anche due. VK Tronic, oh yeah. Ed ora? Ora si comportano come se fossero i nuovi padroni del mercato, i padroni della VK Tronic. Ora decidono a chi spetta tutto e a chi niente. Chi resta in piedi, chi cade, chi torna a rialzarsi e chi scompare all'inferno. VK Tronic, oh yeah. Ma chi credono di essere questi qui? Semplicemente la VK Tronic, azienda leader nel settore componenti. Good morning, Mr. Tronic. Good morning, Mrs. Bank. How are you, Mr. Tronic? I am fine, Mrs. Bank. Look, look, Mr. Tronic. What is this? Surprise, surprise, Mr. Tronic. For me? No, no, Mrs. Bank. Oh! The skate. Yes, Mr. Tronic. Put them on. Now. Now. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Come on. No. Quickly. Okay, Mrs. Bank O'Clay. Oh, the skate. Come on. Oh, stand up. Oh, one moment. Stand up. Walk. Walk. Yes, yes. I am walking. Run, run, run. It's easy. Mrs. Bank, I am a big business man, Mrs. Bank. I am come a leader. On, run, yes, run. Oh, that's difficult. Oh, come on. Yes, I have a good budget, Mrs. Bank. You fall down. You're a stupid, Mr. Tronic. Stupid. Sì, sono caduto, ma non mi sono fatto niente, dottoressa. Mi sono appena sbucciato il ginocchio, ma non si preoccupi. Ma che sta facendo? Si tolga quella stupida maschera. Oh, sì, mi tolgo. Mi scusi, si stava giocando. Mi ascolti ora. Dica pure. Lei ora accetta la mia proposta e se ne va a casa senza fare storie. E mi promette che terrà fuori avvocati, sindacati, ispettori. Non ho lo spazio mentale per questa gente, non ora. Sono certa che lei non mi creerà alcun ulteriore problema. Beh, insomma. Lei sa che questo è un momento difficile per tutti. Sì. Sa che l'azienda sta attraversando una fase critica. Lo so, sì. Insomma, questa azienda è anche sua. Mia. Ma cosa sta dicendo? Non mi costringa ad essere schietta oltre. L'azienda mia. Scusi, sa. Io sono un suo dipendente, io la porto in tribunale. La deve smettere. Di farsi da non accetterò la sua busta. Non l'accetto. La smetto per lei. Lei guardi, sarei capace di metterla. Ma cosa fate? Mi lasci stare. Oddio. Ma cosa ha fatto? Mi ha rovesciato il secchio dell'acqua addosso. Mi scusi, mi perdoni, sono desolata, non so cosa mi preso. Bronchite cronica, ma non si vergogna. Davvero, sono mortificata. Ma lasci stare, lo mi asciughi, lo faccio da solo, mi tolga le mani di dosso. Si allontani da me. Sì, mi scusi, calmiamoci adesso, eh. Sì, calmiamoci, per favore. Oddio, mi ascolti santo. Ora. Ho già la tosse, ecco. Sa quante persone do da mangiare? Sa che se creerà problemi, tutta quella gente potrebbe perdere il lavoro. Per colpa mia. Per lei, la considererebbero responsabile, verrebbero a cercarla anche a casa. Ma cosa dice? E che cosa dirà loro? Oh, scusatemi, sono un egoista, mi sono comportato infischiandomene dell'interesse generale. Mi ridia immediatamente. Dovrà dirgli questo, lo sa? Sì, lo so, ma che c'è? E loro pretenderanno che lei si rimangi tutto, che ritorni sui suoi passi. Perché loro sono tanti, sono 500, mentre lei è uno solo. Ma che cosa c'entra? Che vuol dire? Potrebbero farle ricorso, sa? A me? Oh, certamente, 500 operai in mobilità, tutti a rischio di licenziamento. Ah. Vorranno certamente sapere perché lei, invece, conserva tranquillamente il suo posto di lavoro. No, ma che c'entra? È una mansione diversa. No. Potrebbe finire in galera. Io? Certo, lo ha detto lei. Io ho rubato per voi. Stia zitta, non lo dica, ci sono spie qui dentro. Stia zitta, ma vuole mandarmi in galera? Le toglieranno tutto. Tutto quello che è riuscito a guadagnarsi in questi ultimi anni. Il monolocale al mare, la roulotte, la moto, ma cosa? Il sidecar. Ma che dice? Io non ho mai avuto un sidecar. Ah no? No! Beh, tutto. Potrebbero addirittura ammazzarla, lo oh, sa? Oh, Cristo santo, ma come le... Ha viene? Mai visto una folla inferocita? Sì, ma che... Sono capaci di tutto. Ah, non mi chiami alla guerra. Io potrei ridurla come lei neanche immagina. E lo farei. Stia pur certo che lo farei. Fosse sì, anche l'ultima cosa prima di chiudere tutto qui. Lei non avrebbe scampo. La mia rovina sarebbe la sua rovina. Lei finirebbe insieme a me nella polvere. Io e lei. Sì. Le sue scarpe... Gliele metto a posto. Sì, sì, prenda le mie scarpe. Sì, come sono belle, Rose. Dove erano? Quel giorno erano... Ah, sì, sì. Oddio, non ci avevo pensato. Ma come sono belle col tacchetto. Ma sono uguali a quelli di mia moglie Claudia, sa? Oddio, mia moglie. Chi glielo dice adesso? Mia moglie Claudia. Claudia? Claudia, per favore, dammi le chiavi della cassetta, ne ho bisogno. Non metta in mezzo sua moglie adesso. Claudia, per favore, devi dirmi dove sono le chiavi, Claudia, adesso. Era furioso, me lo ricordo. Lei tornò a casa e parlò con sua moglie. Mi hanno appena consegnato il licenziamento. Ecco cos'ho. Per questo sono incazzato. È tutto qui, in questa busta del cazzo. Ora, per favore, Claudia, la smetti di fare domande e mi dai la chiave della cassetta. Vuoi capirlo o no? Siamo nella merda, Claudia! E sua moglie, Claudia, cosa fece? Me le diede le chiavi della cassetta ed io presi la pistola. Ingoiai un'intera scatola di Taur. Bevi un'intera bottiglia di vodka. Si rende conto? Io che non ho mai bevuto. Beh, tutto questo, come lei sa, mi costò molto caro. Ma io non sarei mai riuscito a... se non mi fossi ridotto in questo stato e comunque in preda a questa confusione mentale. Entrai nel suffragio e la trovai. Vedevo la sua difficoltà. Ce l'aveva scritta in faccia. Mi dia retta, le dissi. Vada a casa. Troverà qualcosa in giro che le si adatterà. Si affretti. Questi sono tempi difficili, ma ci riprenderemo tutti. Abbiamo tutti il dovere di sperare. Non mi importa. E poi diciamo le cose come stanno. Lei ha acquisito esperienza qui in azienda. Noi le abbiamo dato formazione e professionalità che potrà spendere sul mercato senza grosse difficoltà. Mi creda, lei non ha buttato il suo tempo qui con noi. Ci consideri un passaggio, un momento di crescita professionale. Faccia l'uomo flessibile. Voglio lanciarle un'idea. Andiamo, mi dica. Ha mai pensato di realizzare qualcosa di suo? No. Voglio dire, autoimprenditoria. No. Ma sì, ma no. Lei è un uomo capace, molto capace. No. Ha bisogno di coraggio, mi dia retta, rischi. Ma cosa rischi? Se davvero tiene alla sua famiglia, ebbene, si assuma le responsabilità necessarie. Faccia impresa, metta su qualcosa, scenda in campo, venga con noi, si butti in mezzo, in giochi, scommetta. Diamine, non sia così rigido. Sì, parla bene lei. Conosce il mercato meglio di me. E che vuol dire? Ha rapporti con le banche principali. Ma quando ha mai? Un curriculum di tutto rispetto. La ringrazio, però... Io potrei darle delle referenze che lei neanche immagina. E allora? Trovi soldi ed investi. Ma dove? Coraggio, ma mi dia retta. No. Coraggio. Ma lei ce l'ha il coraggio? Lei è come quelli sotto alle macchine o i venditori che si lamentano. Voi tutti ce l'avete il coraggio? Che cosa ne sapete del rischio di precipitare da un momento all'altro, di quest'incubo continuo, dell'ansia, dell'insonnia, di questa lotta quotidiana per restare dritti. Ora mi ascolti. Mi dica, dottoressa. Prenda la busta e se ne vada. È qui che prendo la sua busta. La prendo e la apro. Oh, vado via senza salutarla. Sono disperato. Mia moglie Claudia, sì. Parlerò con lei. Anzi, no, non c'è più nulla da dire. No, non le dico niente. Esco sbattendo la porta. Niente poteva essere peggio di quello che è capitato. O forse sì. Oh, certo. Avrei fatto bene ad accettare la sua busta e ad affrontare la situazione, sì. Beh, alla mia età non sarebbe stato così facile, vero, trovare lavoro, ma insieme saremmo riusciti ad evitare tutta questa polvere. Perché io potevo tornare a casa, sì, sedermi sul divano, stappare una birra, guardare un programma alla TV. E così avrei detto a Claudia: sai, cara, sono stato appena licenziato. E lei, con la sua proverbiale tranquillità, mi avrebbe risposto: oh, tesoro mio, benvenuto all'inferno. Non andò così. Arrivai a casa furioso, rovesciai tavoli, lanciai sedie, urlai a mia moglie: cazzo, quella stronza mi ha appena licenziato, io adesso vado lì e l'ammazzo. Ha commesso un errore, il peggiore degli errori. Ma quale errore? È lei l'unica responsabile, è per causa sua che io e lei siamo finiti in mezzo a tutta questa polvere. La smetta. Ma cosa? Cosa devo smettere? Lei avrebbe dovuto... Cosa, sentiamo, che cosa avrei dovuto fare? Lo diamine. Beh, intanto beva. È di quella buona, eh? Lei conosceva la situazione dell'azienda come nessun altro. Io feci quello che feci, le diedi la busta per il bene di tutti, anche il suo. Non le offrii forse delle possibilità quando c'erano ancora speranze? Prima di lei, non si dimentichi che ho licenziato tutti quanti gli altri. Non ho forse fatto più del dovuto per evitare il peggio? Ha ragione, è davvero buono. Cos'è? Vodka Moskovskaya, etichetta verde, dottoressa. Ottima. Lei sa che ho messo in cassa anche quello che non dovevo. Ho fatto fronte alle spese con fondi personali, purtroppo invano. Ho fatto perfino debiti per coprirne altri. E sa anche che ho dovuto accettare tassi di interesse da usura. Lei sapeva tutto. Eppure questo non è stato sufficiente per evitare il peggio. Lei ha scelto di condannarmi senza offrirmi nessuna attenuante, perché lei è un ingrato ed anche un folle, scelerato, delinquente. Lei ci ha rovinati tutti. Se ne rende conto? Ma cosa dice? Lei proprio non riesce a capire che io ero disperato. Certo. E come crede che fossi io? Felice della situazione? Lei crede che io sia stata una sadica, che non abbia pensato a lei, alla sua famiglia, prima di consegnarle la busta? Crede che me ne sia infischiata dei suoi problemi? Mi dica, crede questo? Avanti, risponda. Senta, dottoressa, permette questo ballo? Ma io non so ballare. Andiamo, ballare è facile. È come camminare. Su, segua i miei passi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vede che è capace? Su, mi stringa. Non pensavo a lei in quei momenti. Io ero disperato. Pensavo a me stesso. Io mi ricordo che dicevo proprio a me, nella mia testa: non hai nulla da perdere, nulla è peggio di questo. E come sa, mi avvelenai e le sparai. so bene che lo ha fatto. Ricordo che all'inizio cercai di consolarla, ma quando rifiutò la busta capii che la rabbia l'avrebbe condotta verso gesti sconsiderati. Mi aspettavo qualcosa, ma sinceramente non quello che ha fatto. Lei mi ha stupita, lo sa? Andai via subito. Ero confuso, molto confuso. Esclusi immediatamente l'ipotesi di tornare a casa e mettere al corrente mia moglie Claudia del licenziamento. Come le dicevo, io ero disperato. Non sapevo cosa fare. Avevo difficoltà anche solo a pensare cose semplici. Dove ho messo la macchina? Devo comprare le sigarette? Ma si rende conto, io che non ho mai fumato. Ad un certo punto mi sentii male. Credetti di cadere, ma... ma non caddi, no. E poi le cose andarono come lei sa benissimo. Gradisce dell'alta vodka, dottoressa? No, grazie. Sentii il campanello di là nell'atrio. Capii subito, probabilmente dalla durata dello squillo, dalla sua intensità, capii che non poteva essere altri che lei. Così, su due piedi, ho creduto che ci avesse ripensato e che ci saremmo salutati con il sorriso sulle labbra. Sa che le avrei stretto la mano? Sa che le avrei, probabilmente, dato conforto? No, quello squillo così improvviso. Lei non stava salendo per salutarmi. Mi alzai ed andai alla finestra, come per spiarla di sotto. Non la vidi. La sentii entrare invece. Mi voltai verso la porta ed ebbi di fronte la sua faccia. Non ebbi paura, ma fui stupita. Lei mi stupì.